Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Supercoppa UEFA, Udine sale la febbre per la finale che si disputerà alle 21 al Friuli tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham, che avrà in porta il friulano vicario. Previsti 22.000 spettatori, 1.000 agenti a vegliare sull'ordine pubblico e sul corteo dei tifosi parigini verso lo stadio questo pomeriggio. Per Gravina il modello friulano è replicabile anche per il futuro. Monfalcone avvolta nel fumo, è scoppiato un incendio sotto la rocca e il vento sta spingendo il fumo e le fiamme verso la città. Impegnati vigili del fuoco e protezione civile, che ha inviato sul posto anche due elicotteri. Dopo le ammissioni di Lorena Venier sull'omicidio del figlio Alessandro, gli inquirenti stanno raccogliendo dall'attacco, dall'autopsia e dai test effettuati dai RIS di Parma elementi oggettivi sulle circostanze del delitto, del quale è accusata anche la compagna di Alessandro, Melin Castro Monsalvo. Il reddito medio in Friuli Venezia Giulia l'anno scorso si attestava sui 25.700 euro, 900 euro in più rispetto alla media nazionale, al nono posto nel confronto tra le regioni, secondo i dati dell'Istat elaborati da IRES, che evidenzia la differenza di reddito tra donne e uomini. La FIPE pubblica il manuale contro il dumping sociale e l'applicazione dei contratti siglati da sigle sindacali non rappresentative che tagliano la contribuzione fino a 4.000 euro all'anno rispetto ai contratti di riferimento del settore, creando così concorrenza sleale tra imprese e lavoratori. Diverse le iniziative in questi giorni per sostenere anche psicologicamente i detenuti nelle carceri. A Udine il garante dei detenuti, assieme a rappresentanti di diverse associazioni, ha consegnato dei pacchi dono ai 183 rinchiusi in via Spalato nella casa circondariale di Pordenone. Grazie a Cinema Zero proseguono gli incontri con il cinema e coi registi. Buongiorno da Andrei Marusci, ci andiamo a Udine, dove ormai c'è il conto alla rovescia per la partita dell'anno, partita nella quale giocherà un ruolo decisivo anche il friulano Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. In piazza Primo Maggio è già stato allestito il villaggio per i tifosi del Tottenham, mentre i tifosi francesi sono indirizzati al Parco Moretti alle 18.30, si muoveranno quindi in corteo verso lo stadio, mentre al castello ci sarà un cocktail di benvenuto con Ceferin e Gravina. Il presidente della FIGC è già a Udine, dove ha avuto modo di esprimere i propri ringraziamenti pubblici alle istituzioni, al sindaco Dettoni e al presidente della regione Fedriga, con il quale, ha detto Gravina, abbiamo avviato questa stagione di collaborazione per lanciare un modello di sport, turismo e cultura. Man mano che passano le ore aumentano i tifosi in città, cresce il brusio per le strade, si intonano i primi canti, l'atmosfera si fa più elettrica. È stato un risveglio lento e pieno di sole per la città di Udine nel giorno in cui ospita uno degli eventi sportivi più importanti della sua storia, la UEFA Super Cup, la Supercoppa Europea, che vedrà in campo alle 21 il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Alle 10 del mattino i due villaggi allestiti per le due tifoserie, in Parco Moretti per i francesi e in piazza Primo Maggio per gli inglesi, erano ancora vuoti, con gli ultimi briefing dei volontari, allestimenti da ultimare e i primi fornelli accesi. Non mancano per esempio goulash, frico e polenta tra le specialità servite. Il grosso dei 6.600 tifosi del Paris e di 4.700 supporter londinesi è atteso a partire ad ora di pranzo. Arriveranno alla spicciolata in città, tra autobus, treni, mezzi propri. Alcuni tra quelli che abbiamo intervistato ci hanno detto di aver approfittato per fare turismo in regione e nel Triveneto. Le tifoserie che parcheggeranno allo stadio saranno portate con bus navetta nei due fan meeting point per un pomeriggio di festa tra supporter della stessa fede e di eventi, e poi da lì riportati allo stadio per l'inizio del match. In mattinata, nel forum organizzato dall'Udinese nella sede di Fondazione Friuli, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato di un evento storico, di una stagione di collaborazione che lancia un modello in grado di unire sport, turismo e cultura. Premio alla visione di una famiglia, quella dei Pozzo, ha continuato Gravina, ma anche alla progettualità di tutto il territorio. Speriamo un giorno di poter vedere l'Udinese disputare partite di questa caratura, l'auspicio dell'ex bomber tedesco Oliver Bierhoff. In piazza Libertà, già da metà mattina, allunga la fila sotto il sole alla UEFA Fan Festival per una foto con i tre trofei esposti, Champions League, Europa League e Supercoppa. Se quest'ultima prenderà la via di Parigi o di Londra, sarà solo il campo a dirlo. I tifosi, birra in mano, solo quella per via dell'ordinanza, prevedono una battaglia tirata, vinta di misura, chissà decisa all'ultimo secondo. C'è tempo per sognare fino al calcio d'inizio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca con Monfalcone avvolta dal fumo, un incendio divampato questa mattina sulle pendici della Rocca. Il vento sta spingendo fumo e fiamme verso le abitazioni. L'aria in centro è diventata irrespirabile, costringendo le persone ad abbandonare il mercato cittadino in Piazza della Repubblica. È in corso l'azione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco con numerose squadre arrivate anche da Pordenone, Udine e Trieste. Allo spegnimento collaborano i volontari della Protezione Civile e del Corpo Forestale. A supporto dell'operazione sono intervenuti anche due elicotteri della Protezione Civile che stanno prelevando acqua dal canale Valentinis. Gli aggiornamenti sull'incendio di Monfalcone ovviamente nelle nostre prossime edizioni. RIS di Parma torneranno questo pomeriggio invece nella casa Gemona dove si è consumato il delitto di Alessandro Venier a raccogliere ulteriori elementi oggettivi per chiarire che cosa è successo esattamente il 25 luglio nella casa della famiglia Venier. In queste ore all'ospedale di Udine è in corso l'autopsia sui resti di Alessandro. I campioni prelevati dal cadavere di Alessandro Venier sono ora nelle mani dei RIS di Parma che a un'ora e mezza dall'inizio dell'autopsia hanno lasciato i medici legali proseguire l'esame nella camera settoria dell'ospedale di Udine per tornare, dopo i primi rilievi di ieri sera, nella villetta di Gemona del Friuli dove l'uomo è stato trovato ucciso, tagliato a pezzi, immerso nella calce viva. Proprio la calce, ancora incollata al corpo, avrebbe in parte compromesso l'attacco fatta ieri sul cadavere, a dirlo il criminologo Edoardo Genovese, consulente tecnico scelto dallo studio Tosel, che difende una delle due indagate per omicidio volontario, Maylin Castro Monsalvo, compagna di Alessandro. Genovese ieri ha assistito ai primi rilievi, accertamenti tecnici irripetibili che sono proseguiti fino a notte fonda per poi riprendere ora. La squadra di RIS ha fatto questi prelievi, è stato spruzzato anche il luminol in diversi locali. Il sangue è stato trovato? Su questo ancora non mi esprimo. Ecco. Questo passato colombiano in qualche modo può influire? Prima occorre cristallizzare la scena, cristallizzare tutti gli elementi che ci possono aiutare un po' per ricostruire l'evento delittuoso e poi in seguito faremo uno studio approfondito anche sulla vita delle persone coinvolte. Il sezionamento del corpo, secondo quanto dichiarato dall'altra indagata, la madre di Alessandro, Lorena Venier, sarebbe avvenuto in salotto. Tanti oggetti che abbiamo così rinvenuto da parte della bambina, quindi questo ci fa pensare che giù in questo piano rialzato era viva la presenza appunto della bambina. Genovese, criminologo noto per aver seguito anche il femminicidio di Giulia Cecchettin, dice ci vorrà molto tempo per ricostruire la vicenda. Diciamo che è un caso atipico per il nostro paese, no? Un'azione del genere è, se vogliamo, antinaturale. Ed in effetti, per trovare un caso analogo, dobbiamo andare indietro di 10 anni. Maggio 2015, una donna del Michigan, anche lei infermiera, soffoca il figlio di 32 anni e seziona il cadavere con un seghetto elettrico. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Vicende come quella di Gemona hanno un'origine, una storia troppo complessa per essere spiegate dentro una relazione causa-effetto, lo ha detto la presidente degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, Eva Pascoli, in un lungo intervento relativo al nuovo piano di salute mentale 25-30. La prevenzione, ha detto, sta alla salute psicologica, come lo screening sta alla cura delle patologie e quindi, prosegue Pascoli, lo psicologo di base, il ruolo dei consultori, il valore della differenza tra salute mentale e psicologia vanno in questa direzione. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha inviato qualche settimana fa una nota ufficiale con proposte di modifica su alcune criticità del nuovo piano di salute mentale nazionale, alle quali Eva Pascoli ha lavorato come referente del gruppo di lavoro sanità. Il reddito medio in Friuli Venezia Giulia nel 2024 si attesta a €25.700, in aumento rispetto al 2023. Il dato è più alto della media nazionale di circa €900. I dati sono dell'IRES. Reddito complessivo medio €25.738 l'anno, il nono dato in Italia, il più basso tra le regioni del nord e la conferma che le donne guadagnano molto meno degli uomini, per essere precisi circa €10.200 in meno l'anno. Sono i dati chiave della fotografia scattata dall'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia e riferita alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche della regione nello scorso anno. Trieste è la provincia più ricca con un reddito medio di €27.306, il capoluogo di regione e il suo territorio si piazzano all'ottavo posto in una classifica nazionale guidata dalla provincia di Milano. Segue Pordenone con un reddito medio di 25.658 euro l'anno, poi Udine a quota 25.534 e infine Gorizia con poco più di 24.000 euro. La provincia isontina però è quella dove il divario fra maschi e femmine è meno marcato, arrivando a 7.700 euro. In regione 7 contribuenti su 10 dichiarano meno di 29.000 euro, tra le donne la percentuale sfiora l'80%. I contribuenti nati all'estero, che sono in maggioranza cittadini stranieri, dichiarano in media un reddito più basso di quasi 8.500 euro rispetto al resto della platea e le donne nate all'estero dichiarano 15.000 euro meno degli uomini nati in Italia. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. La FIP pubblica un manuale antidumping contrattuale nei pubblici esercizi e sottolinea che l'applicazione di contratti collettivi siglati da sigle prive di reale rappresentatività con trattamenti peggiorativi stimati tra i 3.000 e i 4.000 euro contributivi all'anno in meno rispetto a quelli previsti dal contratto di riferimento del settore è una battaglia di civiltà economica e sociale. Anche in Friuli Venezia Giulia, sostiene la presidente regionale della FIPE Federica Suban, avvertiamo l'impatto di queste pratiche scorrette. Le imprese che scelgono scorciatoie contrattuali beneficiano di risparmi improduttivi, rischiano pesanti sanzioni, mettono in gioco la propria reputazione, espongono il comparto a un pericoloso impoverimento e soprattutto compromettono l'attrattività del settore per le nuove generazioni. Posizioni condivise da Filcams, FVG, Will Tux e Fisa Scaccisel, che rimarcano la concorrenza sleale che viene a crearsi tra aziende e lavoratori e chiedono una legge di rappresentanza. L'opera di riqualificazione e sviluppo di Marina Nova portata avanti dal comune di Monfalcone prosegue. In questi giorni è stato concluso l'intervento urgente di protezione civile per il contenimento dell'argine lungo 114 metri e la difesa da allagamento dell'area costiera ovest dell'isola dei Bagni. I lavori si sono resi necessari a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici dell'ottobre 2018 e dai conseguenti provvedimenti della Regione e del Consiglio dei Ministri, che hanno dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale allo scopo di avviare gli interventi a salvaguardia della sicurezza pubblica. L'opera ha avuto un costo complessivo pari a 600.000 euro, di cui 300.000 destinati alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto, e sarà completata con ulteriori interventi a cura del COSEVEC che interesseranno la parte nord e la testata della Darsena. Con questo intervento completiamo un'opera strategica per la sicurezza del litorale e per la difesa dell'isola dei Bagni dagli allagamenti, ha rilevato il sindaco di Monfalcone Luca Fasan. L'intera ex provincia di Gorizia rimane esclusa dall'accesso agli incentivi del PNRR a sostegno dell'acquisto di un'auto elettrica, in quanto non rientra nelle aree funzionali urbane definite dal piano. Lo segnalano i consiglieri comunali di Gorizia, Walter Bandel della Slovenska Skupnost e Fabio Gentile di Forza Italia. Le aree funzionali urbane, dette anche FUA, spiegano, sono state istituite nel 2011 e servono a concentrare gli interventi nelle zone con maggior traffico ed esigenze di mobilità sostenibile. Sempre secondo i due consiglieri, i parametri con i quali sono state definite queste zone sono ormai datati e al contempo penalizzano anche i potenziali beneficiari degli incentivi che risiedono nei piccoli comuni del Goriziano. Il professor Pio Nodari, che ricorderemo alla prima riunione d'aula di settembre come consigliere assessore regionale della quinta legislatura, ma soprattutto come persona di grande spessore umano e culturale, prima ancora che politico, rimane per tanti di noi l'esempio di una vita spesa a servizio della propria comunità, mettendo a frutto i tanti talenti in ruoli e impegni diversi, ma attraversati dalla medesima passione. Lo scrive il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, a nome dell'Assemblea, ricordando Pio Nodari, scomparso un paio di giorni fa a 86 anni. È stato arrestato di notte ai Topolini dai carabinieri un cittadino rumeno di 63 anni ricercato per reati vari tra cui furto, porto di armi oggetti ad offendere e altre violazioni commesse tra la provincia di Udine e Trieste. Per sfuggire ai controlli, a seguito del cumulo delle condanne che doveva scontare, si era reso irreperibile, ma la sua fuga è terminata durante i servizi notturni della compagnia dei carabinieri di Aurisina lungo la zona costiera. Al termine delle operazioni l'uomo è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia. Ai 183 detenuti del carcere di Udine sono stati consegnati i pacchi dono dell'iniziativa Ferragosto in carcere. Non siete soli, promossa da Icaro ODV, dalla Società della Ragione e dal Garante dei Detenuti, con il contributo di COP Alleanza 3.0. Alla cerimonia hanno partecipato il garante Andrea Sandra, il referente della Società della Ragione Massimo Brianese, la vicepresidente di Icaro ODV Marina Toffoletti e Paola Braulin per COP Alleanza 3.0. La campagna inoltre promuove una raccolta fondi che punta a raggiungere almeno 2.500 euro e ha già visto il sostegno di numerosi cittadini. E invece al carcere di Pordenone arriva il cinema per dimostrare che la cultura non conosce confini e che a volte un film può aprire spazi di libertà anche dove sembrerebbe impossibile. Questo è l'intento dell'iniziativa Oltre le sbarre, promossa da Cinema Zero Pordenone in collaborazione con l'associazione Carcere Comunità, animata da Don Pier Giorgio Rigolo e da Silvano Varnier. Un impegno settimanale, portare il cinema nel carcere di Pordenone senza interruzioni nemmeno a Ferragosto. Quest'oggi il nuovo appuntamento prevede la proiezione di Mediterraneo, il film premio Oscar di Gabriele Salvatore. Sa supportare l'iniziativa anche la presenza di registi locali. Ci racconta di più Piero Colussi, tra i fondatori dell'associazione culturale Cinema Zero. La proiezione non avviene in una sala cinematografica, c'è tutto un lavoro di preparazione per poter poi proiettare il film. Il carcere è piccolo, quando è possibile proiettiamo dei film realizzati da autori, da registi del Friuli Venezia Giulia. La settimana scorsa, per fare un esempio concreto, è venuta con noi Laura Samani, che ha presentato Piccolo Corpo, un film che ha vinto un sacco di premi e che racconta una vicenda, diciamo, ambientata nel passato della nostra regione. C'è qualche considerazione o commento di qualche detenuto che le è rimasto impresso? Ci sono alcuni problemi legati alle proiezioni. Innanzitutto che non tutti sanno l'italiano, per cui molto spesso usiamo anche i sottotitoli in inglese, eccetera. Per molti è un'esperienza che non accade normalmente nella vita, andare al cinema o vedere un film assieme ad altre persone. E questo aspetto qui è quello più, secondo me, sorprendente, nel senso che c'è un interesse che va al di là del titolo del film. Faccio un caso, il film Io Comandante, quello che racconta come dall'Africa arrivano in Italia attraverso il mare, eccetera, ecco, quello è un film che ha attirato l'interesse di tantissimi che hanno fatto la stessa esperienza dall'era, insomma. Il cinema può essere rieducativo? Il cinema racconta storie, e molto spesso sono storie legate al passato ma anche al futuro, e in questo senso è un tentativo di fare anche un'opera di educazione. Ma il cinema è anche puro divertimento, una bella commedia che ti fa, come dire, dimenticare il presente e ti distrae per un momento da quella che è la tua realtà. È anche un modo per scoprire un mondo che questi, io li chiamo ragazzi perché molti sono giovani, un mondo che conoscono solo in parte. Siamo al meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 31 gradi e mezzo, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi e mezzo, Udine 32 gradi, Gorizia 31, Pordenone 30, Tolmezzo 28, Forni di Sopra 26, Sappada 25 gradi e mezzo, Piancavallo 25, Tarvisio 25, sullo Zoncolan 22 gradi e mezzo, sull'Ussari 20 gradi e mezzo, a Lignano 31 a grado, 29 gradi, temperatura del mare 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA per le prossime ore: cielo in prevalenza sereno su tutta la regione con possibile locale nuvolosità pomeridiana sui monti. Sulle zone orientali a Trieste soffierà borino, mentre tra Lignano e Grado potrebbe entrare a tratti brezza nel pomeriggio. Temperature massime decisamente alte. E dopo un luglio sottotono a causa proprio del meteo instabile, il mese di agosto sta andando a gonfie vele negli stabilimenti balneari di Lignano, Sabbiadoro, ombrelloni sold out per tutto il mese, aumento di prezzi contenuti che non scoraggiano la clientela, assicura il presidente di Lisagest Roberto Falcone. Sentiamo. Estate 2025 a livello nazionale tiene banco la polemica dei rialzi dei prezzi degli stabilimenti balneari. In molte zone d'Italia si dice ormai essere troppo cara la giornata al mare con un ombrellone, dei lettini, una sdraio in affitto. Siamo venuti a vedere la situazione a Lignano, dove di gente, sarà che si tratta della settimana di Ferragosto, sembra essercene parecchia. Allora chiediamo a Roberto Falcone, che è presidente di LisaGest, com'è la situazione in queste settimane, nel mese di agosto, qui a Lignano? Sold out? Sì, sold out, non poteva essere diversamente. La spiaggia sicuramente, perché come dico sempre è un prodotto finito, quindi non è che abbiamo più ombrelloni del necessario, ne avremmo bisogno di più. Siamo sold out da un mese. Gli alberghi sono anche quelli, diciamo, molto ben messi, sono pieni. Qualche seconda casa è un po' libera perché la gente fa delle vacanze un po', diciamo, strane, meno usuali. Marignano oggi è sold out, quindi siamo molto contenti. Qual è il range di prezzi per una giornata al mare negli stabilimenti balneari qui a Lignano? Allora, io posso parlare per quanto riguarda la LisaGest, quindi Lignano Sabbia d'Oro, e bisogna dividere un po' tra bassa stagione e alta stagione. Naturalmente adesso siamo in alta stagione, un ombrellino con due lettini in una prima fila costa 24 euro al giorno, in una quarta fila 20 euro, in un'undicesima fila 19,50. Questi sono i prezzi reali a trovarne ombrelloni, che non ne abbiamo in questo momento perché siamo sold out, come ho detto. Solo ombrellone o comprensivo anche di sdraio o lettini? Due lettini e ombrellone, quindi un servizio completo. Rispetto all'anno scorso questi prezzi sono rimasti invariati? C'è stato comunque un aumento? Sì, c'è stato un aumento, considerando un'inflazione media dall'1,6 1,7, abbiamo aumentato qualcosa in più, siamo sul 3 e qualcosa, 3 punto, quindi un aumento molto contenuto. Devo anche significare che la LisaGest ha questo compito, quello di calmierare i prezzi. Lignano Sabbia d'Oro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Andrei Marusci, Cenada Cioc, con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.